l'ultimo appuntamento, se non che abbiamo però anche giovedì 31 maggio la presentazione di un libro sull'Alto Adige, una guida turistica, e poi il 7 giugno ci sarà un libro, la presentazione di un libro a cura della Casa della Cultura Ladina. Però del nostro ciclo, questo è il penultimo appuntamento, abbiamo distribuito le locandine per il prossimo appuntamento, quello conclusivo col professor Gianluigi Dardo, e questa sera abbiamo con noi l'ingegner Michele Lettieri, che tutti noi conosciamo e apprezziamo, un caloroso saluto anche da parte dell'assessore Cigolla, che saluta tutti voi e ringrazio in particolar modo anche l'ingegnere che si è prestato anche lui a questa rassegna della memoria. Ci sarà Giorgio che farà un'introduzione storica, abbiamo preparato una serie di fotografie gentilmente prestate e raccolte soprattutto dall'ingegnere Lettieri in questi anni, le abbiamo così scansionate e sarà quindi il filo conduttore di questa serata sulla Bolzano nel periodo della guerra. Vi ringrazio veramente per l'assiduità con cui ci state seguendo. Ricordo sempre che la biblioteca ha anche dei libri che possono servire per approfondire certi argomenti, oppure sono il frutto di certe ricerche anche non solo scientificamente fondate, ma anche frutto di passioni, di ricerche appassionate anche di persone che non sono storici di professione, ma che questo non toglie nulla al loro lavoro. E in particolare li faccio anche, faccio riferimento anche al lavoro che ha fatto Lettieri, l'ingegnere Lettieri, che ha, così, sta scrivendo delle memorie relative a questo periodo e ad altri della propria vita. Cedo la parola a Giorgio delle Donne, che ci introdurrà anche questa volta, e vi saluto, vi ringrazio, vi invito sempre a dare un'occhiata anche alla nostra bibliografia, alla nostra raccolta e anche a diffondere la voce della presenza di questa biblioteca, delle attività che sta facendo. Noi avremo una pausa estiva, una chiusura nel periodo di agosto per via dell'inventario interno e anche così delle necessità amministrative, e poi dal 20 di agosto in poi noi ripartiremo con le nostre attività. Ecco, vi ringrazio intanto e a te la parola. Sì. Diceva se era possibile alzare lo schermo, no? Non è possibile. E a integrazione di quello che ha detto Valeria, io ringrazio ad esempio Orazio Leonardi, che la settimana scorsa ha fatto questo intervento sulla sua esperienza di internato militare italiano. È una persona che ha 80 anni e rotti, suonati, si è messo in internet e ha fatto delle ricerche per vedere di ricostruire il suo percorso di 65 anni fa, e già lo scorso anno mi aveva dato un opuscolo su questa sua ricerca, ma proprio questa sera ha donato alla biblioteca una seconda parte di questa sua ricerca, perché pochi mesi fa è tornato sui luoghi del suo internamento, no? Ecco, ed è interessante, mi ha fatto notare, vedi, questa fotografia l'ho scaricata da Google, no? Cioè, a me piace molto vedere persone che a 80 anni si confrontano con Google, vanno in internet e si danno da fare per cercare di ricostruire la propria memoria. Da questo punto di vista veramente abbiamo degli strumenti che fino a pochi anni fa erano inimmaginabili, no? Ecco, con questa utility di Google ad esempio è possibile non solo individuare i luoghi, ma cioè le città, i paesi, ma individuare anche le singole strade. Non so se avete mai visto questa cosa, no? Io ho provato a cercare casa mia e ho visto la mia automobile parcheggiata, ecco, proprio cioè si distingue la singola automobile, no? Con queste fotografie fatte dal satellite, no? Delle cose veramente, veramente incredibili. Anche la multa? No, quello non si vedeva, quello non si vedeva. Ecco. Anche Michele Lettieri sicuramente ha utilizzato queste nuove tecnologie per quanto riguarda la raccolta di fotografie, non la scansione di fotografie. Ecco, Michele Lettieri è nato nel 1924, quindi più o meno coetaneo, ecco la classe di ferro, nato in provincia di Avellino, se non ricordo male, a Bolzano da quando? Dal 1932, in seguito al trasferimento del padre per motivi di lavoro, no? Ecco, sai che forse... Unione militare. Sarto? Sarto il padre, Sarto tagliatore, avete due storie abbastanza simili da questo punto di vista, insomma, no? Ecco così. Michele Lettieri, che già più volte ha raccontato la propria biografia, ad esempio qualche anno fa sul giornale Il Mattino, vi ricordate, era Storia di una città, come si titolava quella rubrica? Storia di una città? Boltano, una cosa di questo tipo, e diverse puntate nelle quali appunto Letir ha raccontato la storia della sua giovinezza durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale. E facevo già notare la volta scorsa che proprio questa serie di autobiografie sembra l'autobiografia del quartiere di Viale Venezia, no? Perché abbiamo avuto Ada Vita, la signora Zamboni e oggi Michele Lettieri, che sono proprio belli, belli radicati in quel quartiere da 60 anni circa, insomma, no? Ecco, e Lettieri, che raccontando i suoi 20 anni, ci ha raccontato la Seconda Guerra Mondiale, l'esperienza della Lancia, ad esempio, dove molti giovani all'epoca lavoravano durante la Seconda Guerra Mondiale, anche perché essendo una fabbrica militarizzata, in questo modo era possibile evitare di andare al fronte, quindi la Lancia, che in quegli anni ha coperto diverse persone che poi fortunatamente sono rimaste qua e fortunatamente sono state poi dopo anche la classe dirigente boltanina dopo il 45. E Michele Lettieri, che più volte ci ha raccontato la storia della sua attività dopo il 45, quando si trattava di riorganizzare anche i giovani sia di lingua italiana che di lingua tedesca, orfani delle strutture del PNF, no? Perché fondamentalmente per 20 anni l'associazionismo giovanile era stato in mano al partito, quindi dopo il 45 si trattava di riorganizzare l'attività sociale, molto spesso utilizzando anche le stesse strutture, no? Cioè gli stessi edifici dell'epoca. Ecco, Michele Lettieri, che poi abbiamo conosciuto tutti negli anni 60-70 come insegnante topografia e costruzioni nella scuola, nella scuola per geometri di Bolzano, e famoso anche per questa splendida iniziativa che è stata la costruzione dei Prati del Talvera, no? Di cui tutti noi, ecco, siamo grati. Sicuramente la città per i prossimi secoli sarà grata, se mai avrà memoria, sarà grata a Ligio Lettieri per questa sua iniziativa. Quindi noi adesso gli lasciamo il microfono e poi c'è una connessione una connessione intellettuale con la Valeria, che da quello che ho capito dovrebbe poi dopo far scattare le singole fotografie, giusto? Quindi praticamente quando lui ti dice vai, passa alla prossima, tu passi alla prossima, va bene? Quindi lui comincia, seguirà questo percorso fotografico e cronologico. Parlare un po' del periodo prebellico. Certo. Facciamo un'introduzione a questa. Certo. Sì, una ecco. Breve introduzione. Queste le foto sono divise tematicamente? Sì. Ecco, per cui basta dire a Valeria in quale directory, sì. Giusto? Perfetto, perfetto. Ora faccio una breve introduzione. Perfetto, no? Però ci vuole il microfono. Io sono un po'. Scusate, la vecchiaia mi impedisce di alzarmi. E volevo dire, per me è difficile parlare dopo un conferenziere, perché io non sono abituato. Noi ci facciamo una chiacchierata. Praticamente, cosa è accaduto? È accaduto che io. Quando sono andato in pensione mi sono accorto che ero ignorante della storia di questa città e di questa provincia. Ho avuto la fortuna per 60-70 anni di vivere sempre nella stessa casa, con una cantina enorme dove ci sono 2-3 casse. Quando avevo qualche documento lo buttavo lì dentro. Nell'esaminare questi documenti è venuto fuori una bellissima storia. Io l'ho intitolata Le memorie di un extracomunitario degli anni 30, perché sono venuto su negli anni 30 ed eravamo trattati più o meno come, ma no, molto peggio di come oggi vengono trattati gli extracomunitari. Siamo venuti su e praticamente che cosa abbiamo formato? Abbiamo formato un gruppo che allora in Italia la lingua italiana era poco conosciuta. Il regime ha fatto dei miracoli con trasmissioni giornaliere perché non si parlasse più il dialetto, perché in ogni regione si parlava il dialetto. Proprio quando si andava a scuola si prendevano certe stangate, io prendevo sempre 4. Perché prendevo 4? Perché nel dialetto meridionale non esiste il congiuntivo, esiste solo il condizionale, che io potrei, se io potrei, eccetera, eccetera, e ci cascavo sempre. Altri ci cascavano per altri motivi, i veneti per le doppie e via dicendo. Poi quando ci incontro, io a Bolzano l'ho definita, la Bolzano di allora, una città dialettofona, perché tutti quanti parlavano un italiano che non era altro che la traduzione del suo dialetto. e quando ci incontravamo molte volte dovevamo aiutarci qualche volta anche con qualche gesto per farci capire. Ma è vero, non è che è un'invenzione. Comunque c'erano le bande che quelli di lingua tedesca li chiamavano Grenz. C'era la Grenz del San Quirin, c'era la Grenz del centro storico, c'era la Grenz delle case Incis. Queste bande erano in continuo lotta fra di loro, perché si giocava nel Talvera oppure nell'Isarco, e tutti eravamo alla conquista di una vasca per farci il nostro lido, perché il lido a noi era proibito per motivi finanziari. Il lido dov'era? Era nel Talvera, a valle del ponte Talvera sulla destra, e si entrava dall'attuale, allora non c'era, Viale Venezia. Si chiamava Gugler. Era un lido che era tutto intorno, non c'era, c'erano dei tavolati. Questi tavolati erano tutti bucherellati, perché noi, per vedere le bambine in costume da bagno, anche se allora i costumi erano molto castigati, facevamo il forellino per guardarle. La nostra conquista però fu quando questo lido fu trasferito in via Trieste. Allora non c'erano i tavolati, c'erano soltanto le reti, con queste reti in acciaio noi potevamo guardare dentro, e i costumi nel frattempo si erano un po' evoluti, è incominciato a venire il doppio pezzo, eccetera, eccetera. Per cui noi, ma poi di tanto in tanto cercavamo anche di entrare dentro, scavalcavamo la rete e andavamo dentro gratis, se non che qualche volta ci è andata male. Una volta il bagnino ci ha sorpresi, e la sera ci ha fatto lavorare fino alle 11, perché c'era il cambio dell'acqua nelle vasche, e siamo arrivati alle 11 a casa. Immaginate allora, a quel tempo, arrivare alle 11 a casa. Prima che si aprisse la porta già mi erano arrivate due sberle di mio padre. E a letto senza cena. E allora vai a sinistra, tu, e non andare a destra, c'era la cucina, a sinistra stasera senza cena. Logicamente, dopo che aveva salvato la sua patria potestà, diceva la moglie, questo lo immagino oggi, vai lì a dare un po' di minestra, e veniva la mamma di nascosto ufficialmente e a portarmi la minestra. Questo è uno dei tanti episodi. Comunque, in queste memorie ci sono tanti episodi della guerra. Innanzitutto quello dell'entrata in guerra, il 10 giugno del 1940. E praticamente noi giocavamo in Viale Venezia alla palla prigioniera. A un certo momento sentiamo un megafono, e tutti, quando suona la sirena, tutti in piazza Walter ad ascoltare il discorso del duce, che ci diceva che noi entravamo in guerra. La cosa che più ci ha colpito a quel tempo è che dei vecchietti che avevano fatto la grande guerra ebbero a dirci: putei, cercate di non applaudire, perché vi accorgerete che cos'è la guerra. Noi li chiamavamo disfattisti, perché questi sono contro il regime, mentre invece dopo ci siamo ricreduti e loro dicevano una santa verità. Poi durante la guerra, più veloce? E fallo entrare. Fallo entrare, perché lui ha poco tempo. Venga, assessore. Mi mette sull'attenti. Buonasera. Di fronte a tanta saggezza e scienza accademica, come naturalmente... E beh, insomma, è la verità, Don Michele. Andiamoci piano. Don Michele, tu hai allevato migliaia di giovani, e tutti, non ce n'è uno che non lo ricorda. Veramente una cosa meravigliosa che un docente sia riuscito a conquistare queste giovani creature. Onore al merito. ma devo anche testimoniarti che la città di Bolzano soprattutto ti deve fare un monumento. Per carità, i monumenti facciamoli, ma veramente tutta la massima riconoscenza. È un uomo che ha donato per la città di Bolzano come nessuno. Intendo sottolinearlo veramente come riconoscente ringraziamento a nome dell'assessorato alla cultura, a nome della provincia autonoma di Bolzano, Don Michele, ad multos annos. Ciao, grazie. Ciao. No, io devo, un attimo prima che scappi via, devo ringraziarti ufficialmente perché l'assessore non mi conosceva, però sapeva delle mie iniziative. Una volta mi ha fermato e dice: ma ingegnere, qui tutti vengono a chiedere soldi e lei non viene mai da me. E io gli ho detto: a me piace creare le cose dal nulla. Però lui ha tanto insistito, si è messo a disposizione, e siccome io sono nemico del computer e andavo sempre a elemosinare alla mia scuola qualche allievo che mi battesse a macchina, mi è stato molto utile perché mi ha dato un concreto aiuto nello scrivere queste cose. Grazie ufficialmente. Allora parlavamo dell'entrata in guerra, e la prima cosa che ci ha colpito dopo dal 40 fino al 43, noi la guerra bolzana non l'abbiamo sentita, ce ne ricordavamo quando facevano i matrimoni per procura, la sposa era qui e lo sposo era al fronte, era una cosa molto interessante, ma però la guerra non l'abbiamo sentito fino al 43, fino all'8 settembre del 43. Quando è arrivato quest'8 settembre del 43 è successo la fine del mondo, nel senso che tutti i soldati li hanno messi nel campo druso e dopo li hanno trasportati nel greto del Talvera. Noi ragazzini, Madonna. Noi ragazzini, e devo sottolineare di lingua italiana e di lingua tedesca, anche qui di lingua tedesca, di entrambi i gruppi, ci siamo organizzati in Viale Venezia perché questi soldati che venivano portati nel greto del Talvera, i tedeschi avevano pochi soldati per fare la guardia a loro, ce n'era uno ogni 50 metri, uno da una parte e uno dall'altra. Noi ci siamo organizzati, siamo andati in tutte le famiglie a prendere vestiti borghesi e ogni tanto prendevamo due o tre soldati, venite, e loro li portavamo in cantina. Gli davamo il vestito in borghese, per lui era un passaporto, e ne abbiamo salvato una cinquantina. Ma devo sottolineare che nel nostro gruppo c'erano sia quelli di lingua italiana e sia quelli di lingua tedesca, che molte volte facevano da interpreti con le guardie. Perché devo dire un'altra cosa, che l'8 settembre gran parte della popolazione ha rinunciato alla sua razione del pane. Questo pane l'hanno dato a noi ragazzini e noi andavamo nel Talvera a portarlo ai militari. Queste cose si sono purtroppo dimenticate, ma sono cose che a me colpiscono ancora dopo tanti anni, non perché le ho fatte, ma anche se le avessero fatte gli altri. Sono cose interessanti perché tutta la popolazione è stata vicina a questi soldati. È venuto l'8 settembre, dopodiché sono incominciate. Il primo bombardamento l'abbiamo avuto il 2 settembre. Giocavamo a calcio contro la FLAC, contro i militari tedeschi nel campetto del Lido. Si chiamava campetto del Lido, era nel greto del Disarco. Certamente viene l'allarme, i tedeschi vanno alle mitragliatrici, noi siamo rimasti lì nelle buche e c'è stato un bombardamento. Questi sono ragazzi del 53, e qui questi sono i Pulcini, non sono della mia generazione, sono i giovani. E di che parlavamo? Madonna, la sclerosi, la vostra età, come avanza. E allora, è il primo bombardamento il 2 settembre, dopodiché ci sono stati altri bombardamenti e dove si andava? In galleria. Ma però quando uscivamo dalla galleria c'era la sorpresa, c'erano i poliziotti della SOD che ci aspettavano, tutti gli adolescenti dai 15 ai 18 anni li prendevano, li portavano nell'ufficio del lavoro e ci davano finalmente un posto di lavoro. La maggior parte di noi ha preso un posto di manovale o alla Lancia o alla Acciaierie, ci davano 2,40 lire all'ora, guadagnavamo circa 500 lire al mese, non le potevamo neanche vedere perché bisognava consegnare la busta chiusa al papà che ti dava 10 lire perché, alla settimana. E, però devo dire che quei soldi ce li si... Noi credevamo che li prendesse lui, no? Li mettevano in banca a nome nostro, che poi li abbiamo utilizzati in seguito quando siamo andati a studiare all'università. Ma comunque il lavoro si partiva alle 5 di casa, a piedi si arrivava alla Lancia, 12 ore di lavoro, poi un'altra ora per tornare a casa. Molte volte i genitori, la maggior parte dei genitori erano sfollati, uno arrivava in una casa gelida, nel 1944 è stato uno degli inverni più freddi, noi in casa non avevamo il termometro, ma comunque sicuramente eravamo a 0 gradi, se non sotto zero anche in casa, perché gli infissi non c'erano, perché i bombardamenti avevano rotto i vetri e avevano rotto anche buona parte delle cose. Nessuno aveva tempo di aggiustarli, perché se andando a lavorare e più che metterci un po' di cartone non potevamo, quindi c'era un freddo cane, vestiti ci si metteva, vestiti col passamontagna e coi guanti ci si metteva a letto e si dormiva anche male poco, perché bisognava andare in orario a timbrare, perché se uno timbrava con 2 o 3 minuti di ritardo ti toglievano un'ora di lavoro. Non era tanto l'ora di lavoro, ma era soprattutto il fatto che noi non lo sapevamo, l'abbiamo saputo dopo, entravamo in una lista nera. Cos'era questa lista nera? Ogni tanto arrivava un camion in fabbrica della Wehrmacht, chiamava degli individui e poi li mettevano sul camion e non si sapeva dove li portavano. L'ho saputo quando... Cosa c'è? Parla forte. Ah, do fastidio a te? Allora, mi metto seduto, sto meglio. L'ho saputo quando sono entrato anch'io sul camion. E noi pensavamo che ci portassero chissà dove. Invece ci portavano o a Ora o alla Vis, al Ponte dei Voti. I due ponti erano indispensabili per l'esercito tedesco perché la linea ferroviaria era l'unico mezzo per portare i rifornimenti all'esercito che operava in Italia. Per cui gli americani lo bombardavano quasi ogni mese, ogni settimana, e i tedeschi subito lo ricostruivano. Noi eravamo la manovalanza, ci portavano giù, ci davano quel pane nero che se uno lo dava in testa a qualcuno lo tramortiva, quel pane lo bagnavamo sotto l'acqua, ci mettevamo un po' di margarina sopra e questo era il nostro pasto giù, e a lavorare a picco e badile. Le scuole erano chiuse, cioè alcune erano aperte, ma molti non si fidavano di andare a scuola, perché ogni tanto arrivava la polizia e diceva venite qua, davano picco e badile, e quando c'erano le macerie da raccogliere dopo i bombardamenti, questi qua dovevano operare in qualche maniera. Passiamo al lavoro, dopo il lavoro obbligatorio, che cosa è accaduto a Bolzano? È accaduto, diciamo, la liberazione. Noi abbiamo avuto uno shock enorme sia per le opzioni sia per l'8 settembre e soprattutto per l'occupazione germanica. Uno shock qual è stato? Prima della guerra, fra noi di lingua italiana e lingua tedesca c'era una fraternità che non ve la potete neanche immaginare. Noi non sapevamo che loro fossero tedeschi, loro non sapevano che noi eravamo italiani, eravamo amici per la pelle. Le opzioni sono state il primo motivo di un certo distacco, l'occupazione germanica ha aumentato questo distacco. Le opzioni, la Germania ha mandato i suoi agitprop che avevano operato nella Saar, perché c'era stato il plebiscito nella Saar, 2-3 mila persone che andavano maso per maso per convincerli a optare per la Germania. E se per caso qualcuno aveva un dubbio che non sapeva per chi votare, lo legnavano, perché dovevano, addirittura i bambini, i figli di coloro che erano in dubbio, li prendevano a sassate quando andavano a scuola. Ci sono degli episodi raccontati da autori di lingua tedesca, dei famosi Dableiber, quelli che avevano votato per l'Italia. Ci sono degli episodi raccapriccianti, per quello che addirittura gli ammazzavano le bestie, gli bruciavano molte volte in maso, e ne hanno fatte di tutti i colori, e molti di loro si sono convinti anche per questi motivi, altri non lo so. Comunque, la maggior parte ha votato e se ne sono andati, e per cui anche i nostri amici li abbiamo persi. E quello per noi è stato un brutto. Quando è arrivato, e poi c'è stata la liberazione. La liberazione, lasciamo perdere il discorso sulla liberazione, a noi quattro ragazzotti ci hanno messo un bracciale qua del tricolore. Vi racconto solo un episodio. Io non sono più andato in fabbrica. A proposito, io ho ricevuto dalla Lancia una raccomandata dopo, che mi avevano licenziato perché... E forse qualcuno ha scritto, non so, perché avevo aderito al CVL, a Comitati Volontari della Libertà. Ma forse avevano ragione, perché dice tu te ne sei andato dall'altra parte, perché io me ne sono andato dalla Lancia senza neanche informarli, non vedevo l'ora di scappare via. Comunque, quando ci hanno dato la braccia, questa fascia tricolore, hanno detto andate davanti al cimitero e fermate solo i fascisti, non i tedeschi. E noi siamo andati al cimitero disarmati, perché bisognava assolutamente essere disarmati. Siamo andati davanti al cimitero e finalmente è arrivato un camion di fascisti. Quando hanno visto questi qua col tricolore, Madonna, si sono impressionati, e dice Madonna Santa, cosa ci fanno? Noi abbiamo cercato di calmarli, noi avevamo solo il compito di portare via loro le armi e di portarli nel sottoscale. Ma erano per lo più, non dico, erano giovinetti di 16, 17 anni, 18 anni. Io nei loro volti vedevo i miei amici che erano andati nella Repubblica Sociale con entusiasmo, erano idealisti e sono andati nella Repubblica Sociale. Nel vedere questi qua, io li ho aiutati, li ho portati lì con un certo timbro, gli ho dato un lascia passare, erano dei ragazzini, perché i tedeschi avevano la possibilità di andarsene oltre Alpe e quindi al sicuro, ma questi ragazzini, qui si vede, qui c'è Pasquali, il fratello di Alberto, poi c'è la Sonia, Madonna, la Silvana Silvestri, Madonna, Carusi, sì, e questa è una gita, è la moglie di Aldo Migliucci. La Silvana, il Nello Marastoni, l'architetto. Il PAN, vabbè, se vuoi puoi andare avanti, ogni tanto mi distraggo. Streghetta. E qui sempre in montagna, i soliti noti. Qui c'è Natale, Tatara. Questa è la squadra di calcio. Guardate, i nomi non li conosco perché questi sono i pulcini. noi li chiamavamo i Pulcini e la seconda generazione, perché la mia generazione viene dopo. Questo è un ingegnere. Questi sono i ragazzi del liceo. Ecco, questo è il processo ai fagioli. Quelli che erano iscritti al secondo anno di università erano i fagioli. Siccome un anno non c'era una matricola, perché di solito la matricola si faceva a quelli del primo anno, abbiamo trovato una scusa per processare quelli del secondo anno. E qui si vede il notaio Tommaso in seconda fila, in seconda, poi viene Pasquali, poi viene il Bianconi. Cardiologo. Non è Bianconi. Il cardiologo. Non è Bianconi. No, Bianconi è questo qua, ma dietro Braido. C'è il cardiologo Braido. Che è morto anni fa. Braido. È Braido. Poi viene dietro, qui c'è... Lotte. Questo è il dottor Fossi. Questo è Lotte. E questi deve essere Zadra e dietro... vabbè, sono diventato vecchio. Vabbè. Ah, ci sono i nomi qua. Barzoli, Lotte, Fossi. Bonomo. Ah, il Bonomo è... La maggior parte, i primi tre, i primi quattro, i primi cinque, se ne sono tutti andati. Tutti. Cos'è? Che c'è uno vivo? No, vabbè, capita. Questa è una terza liceo, dove si vede... Professor Rasmo. Professor Rasmo. E poi si vedono i vari allievi, questi sono tutti della terza liceo, non so, del 40, Franco Bonatta, qui Bonvicini. Era classico, no? È un po' storta. È sempre la stessa. E questo è il figlio dell'ingegnere. E lì Giampiero, Giampiero. Non c'è Miori quello. Poi viene Filippi. E non è Miori quello lì. Chi? Miori. No. Quello è Giampiero Miori. Miori, infatti, cosa detto? Eccolo qua, qua lo vediamo. Il primo è il marito della Fiore. Flame. Flame. Poi viene. Giancarlo Bonvicini, Giampiero Miori, Filippi, Bonatta, questo è Giannelli, Manlio Giannelli, fratello... Microfono! Microfono! Non ti sento! Devi parlare! Ah, scusate. Allora, dicevo, a parte il professore... Qui subito al suo fianco c'è Franco Bonatta, questo non ricordo, dovrebbe essere Giaccone, ma non sono sicuro. Questo è Giannelli, poi dietro c'è Filippi, questi tre devono essere dei professori, non li conosco. Dietro c'è Giampiero Miori, Sandro Bonvicini, questo non mi ricordo come si chiama, Guido. Come si chiama? E in fondo c'è il Piero Flaim, farmacista, sì. Allora andiamo avanti. Cosa successe? Che durante la guerra erano proibiti i balli. Noi speravamo che venissero fuori che negli allarmi, perché la vita sociale la facevamo dentro i rifugi, perché fuori più di tre persone non potevano stare assieme. Questo è un liceo classico, i nomi sono sotto. Allora c'è il notaio Longi, poi viene il Franco Pasquali, poi viene l'Aldo Libori, poi viene il Fabio Fossi, poi viene questo, come si chiama, ostreghetta, ho messo la X, ogni tanto mi ricordo il suo nome, Mirko Casalini, ma non è a Bolzano. Questo è Barina, che viene di tanto in tanto a Bolzano, viene a Venezia. Sotto vediamo chi c'è. Il primo non mi ricordo, questo è il fratello di Aldo Pantozzi. il Franco Baltani che vive a Merano, questo è Davide del Sasso che vive a Roma, questo è il notaio Tommasi che se n'è andato e qui il Bonomo, un po' balbuziente, se ricordi, e se n'è andato anche lui, viveva a Trieste e se n'è andato. Ecco, torniamo all'argomento di me. Allora guardiamo un po' di foto, dopo... questi sono i tre, no? Il cardiologo, Fossi e Bonomo. Braito, cardiologo Braito, grande fumatore, rimproverava gli altri che fumavano, ma lui fumava 40 sigarette al giorno. Io poi ho avuto la disgrazia che quando c'erano questi qua, vieni in ospedale, cosa vengo a fare? Sto bene. Adesso che ho bisogno, se ne sono andati tutti quanti. E questa è la foto, più o meno, è il liceo di... Questo è Giaccone. Eccolo qua, questo è Giaccone, l'ho riconosciuto... che durante la liberazione comandava un gruppo, questo è Franco Bonatto, Bonvicini, e gli altri, ci sono i nomi sotto, no, non ci sono, niente. E lei, non mi ricordo come si chiama, una liceale, non mi ricordo. E qui dove siamo? Non lo so, sai. Chi? Quello è lui? Questo qui? Chi è? Chi è? Lui. Sei tu? Alzati. Alzati. Eccolo qua. Potevi dirlo prima che neanche tu ti sei riconosciuto e pretendi che io ti riconosca. Allora andiamo avanti? Allora, questa è un'altra terza liceo, quello di prima. Beh, qui vedo Barina, è una parola qua. È un gruppo, è tutta una terza liceo. Ma ho paura che sia più di una classe. Perché sono troppi. 3, 6. No, oggi le classi sono di 10-15. Quando io ho iniziato a insegnare ne avevo 36. Oggi quando ne hanno 15 i professori dicono sono tanti. Andiamo avanti, voilà, perché questo è un gruppo troppo stesso. Bombardamenti. Adesso è finito questo gruppo. Adesso vediamo. Se facciamo dopo una pausa parliamo dei bombardamenti. È possibile seguire la stessa operazione? Non so se sono... Siete in attività? Ora vado avanti io. Allora, durante la guerra organizzavamo i balli nelle cantine. Si partiva il sabato sera e facevamo la marcia longa fino al lunedì mattina quando si andava in fabbrica, perché a casa nessuno aveva i genitori che erano sfollati, chi portava dei cucchiai di farina, chi portava un po' di saccarina, eccetera eccetera, eravamo proprio nella miseria più assoluta. Quello che mancava è la flora e la fauna femminile, venivano 3 o 4 manovali della Lancia con la tuta, per di più in tuta venivano, e noi eravamo 10-15 ragazzotti alla conquista di queste dei 2 o 3 ragazze, erano tutte attempate, noi le chiamavamo vecchiarelle perché erano sui 30 anni, noi ne avevamo 17-18. Ecco, questo qui c'è, qui ci sono io, qui il dottor Leff, Fucci Amati, Robert Ferrari, Pierino Mitolo e Sandro Palvarini. E quella era una fidanzata. E qui siamo in prima linea, vediamo il Sandro Racchetti, la Silvana, la moglie del dottor Silvestri, Quella non mi ricordo. Erone, Giampiero Miori, poi viene Carusi, poi viene Garavelli, poi viene Ceccarelli, poi viene Racchetti, Paolo Racchetti, poi viene dietro deve essere Lamberto, poi viene Pippo Dellai, poi viene Ronconi, noi lo chiamavamo Ronconi e non mi ricordo il nome, Baratto, e poi giù in fondo Ivo Giovannazzi. Noi lo chiamavamo Ronconi perché allora tutti tenevano o per Balsterli o per Coppi. Questo venne lì e teneva per Ronconi. Ha ricevuto il soprannome di Ronconi. Lui era segretario del presidente del tribunale, no? E quando uno dice, ma io vorrei andare, sì, vai dal signor Ronconi, diceva. Quando andavano là, il signor Ronconi non lo trovavano, no? Andiamo avanti? E questi sono i soliti, no? Saccani, Vito Saccani, Fucci Amati, Sandro Palvarini, Bruno Palvarini, è Bruno? Sì, Beppe Drago, io e il geometra che è andato a Verona, Vezzali, Madonna non ho più memoria. No, perché questo è uno dei 10-15 dischi che ho, io ne ho dato uno, chissà quando è stato fatto, perché c'è una caterva di fotografie. E qui, questi sono al Lago di Garda. Al Lago di Garda c'è la Marisa Cettella, Beppe Manghi, il marito, la Luisa Donati. Pan? Sì, Manzardo, hanno scritto Lanzardo e Bianconi, Bianconi sotto. Praticamente al Lago di Garda cosa è successo? Che uno che era stato beffato anni prima, quando è diventato presidente del CUC, ha organizzato una gita al Lago di Garda. Una gita, due pullman all'andato, il pullman ci ha impiegato 2 ore, al ritorno 6-7 ore. Come mai? Questo qui ha purgato tutti con i cioccolatini e con il vino. E ogni 5 minuti qualcuno gridava fermo e doveva scendere. E quindi lui si è vendicato dopo tanti anni, perché lui è stato vittima anni prima del famoso scherzo di San Moritz. Praticamente tramite i fratelli Amon, Christoph e Ander, e Robert Ferrari, che studiavano in Svizzera, abbiamo fatto arrivare dal Zurigo una lettera al CUC di Bolzano che si invitavano 2 universitari italiani a San Moritz per 3-4 giorni, fine settimana.